Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova puntata insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e anche oggi ritroviamo al telefono con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Parliamo oggi di un argomento che adesso ci spiegherai, ci illuminerai. Parliamo del bonus Poletti. Sì, allora, purtroppo non c'è una buona notizia per i nostri pensionati. È successo ancora qualche giorno fa che purtroppo la Corte Costituzionale ha bocciato la settantina di ricorsi che erano stati presentati da altrettanti pensionati, ovviamente tramite i propri legali e tramite le organizzazioni sindacali, contro il cosiddetto bonus Poletti, tramite il quale in pratica il governo Renzi ha circa sanato in parte, oggettivamente, una situazione che ha penalizzato i pensionati e che è stata decisa ancora nel 2012, anzi nel 2011, dal decreto Salva Italia del governo Monti Fornero. Ecco, riusciamo a spiegare un attimo che cos'è questo bonus Poletti, allora? Certo, Francesco. Allora, intanto partiamo dal decreto Salva Italia del 2011, se lo ricorderanno molto bene tanti pensionati, esattamente in Veneto quasi 470.000 pensionati. Infatti quel decreto stabiliva per le pensioni superiori a tre volte la minima, quindi superiori, diciamo, a tre volte 500 euro, quindi dai 1.500 euro in su, aveva in buona sostanza bloccato le rivalutazioni. Cosa significa? Significa che le pensioni non venivano rivalutate seguendo appunto l'inflazione. Questo era stato deciso dal governo Monti Fornero, anzi dalla legge Fornero, tanto detestata da molti pensionati. E così, in parole povere, avendo bloccata questa rivalutazione, i pensionati sono andati a perdere parecchi soldi, anche alcune migliaia di euro, insomma, per chi ha delle pensioni più alte. Questa decisione è stata bocciata nel 2015 dalla Corte Costituzionale. In parole povere, la Corte Costituzionale ha detto che questo blocco delle rivalutazioni era illegittimo. A quel punto è intervenuto il governo Renzi, siccome effettivamente le cifre da restituire sarebbero state altissime, e diciamo che il governo Renzi ha trovato una soluzione parziale, per cui ha rimborsato solo parzialmente, in quantità, in percentuali veramente minime, i pensionati che avrebbero avuto diritto appunto alla rivalutazione della propria pensione, e tra l'altro solo quei pensionati che hanno delle pensioni comprese tra i 1.500 e i 3.000 euro, quindi sono rimasti fuori, diciamo, i pensionati più ricchi, quelli che sì, hanno delle cifre superiori. Rispetto a questo bonus Poletti, che, ripeto, rimborsava solo parzialmente ciò che era dovuto teoricamente ai pensionati, sono stati presentati appunto una settantina di ricorsi, perché praticamente erano dei ricorsi pilota presentati tramite soprattutto le organizzazioni sindacali, nei quali si contestava appunto la illegittimità del bonus Poletti, perché si diceva: no, tutti i pensionati devono ricevere tutto ciò che gli spetta secondo quanto appunto stabilito dalla Corte Costituzionale. Purtroppo però è arrivata la brutta notizia in questi giorni, dopo molto tempo di discussione, dopo una grande discussione, la Corte Costituzionale ha deciso di definire legittimo il bonus Poletti, quindi sostanzialmente la partita si chiude qua. Il problema però, Francesco, e questa è una cosa un po' che riteniamo abbastanza clamorosa, è la motivazione con cui la Corte Costituzionale ha definito legittimo poi il bonus Poletti, contro il quale appunto erano stati presentati dei ricorsi. Praticamente la Corte Costituzionale dice: è vero, avete ragione voi pensionati, però se dovessimo restituire tutti i soldi creeremmo un problema di bilancio al Paese. In parole povere, la Corte Costituzionale ha detto: voi pensionati in questo momento siete un po' il bancomat del Paese e state aiutando il Paese a sostenersi, a sostenere il proprio bilancio. Chiaramente non è una cosa giusta, noi lo riteniamo ingiusto, come lo ritengono ingiusto anche le organizzazioni sindacali. Non è giusto, insomma, che venga chiesto il sacrificio a una sola categoria di persone, tra l'altro una categoria che non è per niente avvantaggiata come pensano in tanti, ma una categoria che, anche vedendo gli ultimi dati diffusi in questi giorni, in gran parte ha degli assegni previdenziali che stanno addirittura sotto i 1.000 euro, gli 800 euro al mese. Quindi, insomma, non è una categoria certo privilegiata, ma continua a essere una categoria in grande difficoltà. Eppure anche la Corte Costituzionale, diciamo, ha dato ragione al fatto che il pensionato venga un po' preso come un bancomat per pagare le difficoltà del bilancio statale. Allora, mi sembra proprio di capire che non c'è verso, le cose ormai vanno così e quindi bisogna mettersela via. Sì, tendenzialmente questa partita è chiusa, anche se diciamo associazioni, sindacati sono scese in campo per difendere appunto il pensionato. In questo caso diciamo che oggettivamente la partita ci sembra chiusa, si potrebbe procedere con altri ricorsi, però oggettivamente gli esiti sarebbero molto incerti. L'unica cosa che possiamo dire, in primis ci auguriamo che la rivalutazione, come è stato annunciato, venga reintrodotta pienamente dal 2019 in poi, e ci auguriamo che finalmente insomma si trovino altre vie per finanziare il bilancio dello Stato che non siano sempre quelli di prendere soldi dai pensionati. Ecco, speriamo che non aumentino la benzina o altre cose, magari. Oliva. Va bene, ci risentiamo per un altro appuntamento tra qualche giorno con l'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca Codognato e buona festività di tutti i santi. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.